Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati è in America solo perché i fatti si svolgono lì, ma in verità è nelle coscienze di ognuno di noi. Potrebbe sembrare che si parli di colore della pelle, che può fare la differenza in un determinato periodo storico. In realtà si parla di religione, quale spunto per la rivoluzione che non conosce tempo. Si parla di nomi che rappresentano un passato e di segni che possono determinare un futuro che sembra non arrivare mai. La storia di oggi è la storia di un uomo che ha incontrato il suo destino mescolandolo a quello del mondo intero. È la storia di chi è riuscito a trasformarsi nel tempo, grazie all'incontro con un altro uomo e con la religione, passando da una maggiore consapevolezza di sé a una maggiore consapevolezza del genere umano. È la storia di ogni lotta per i diritti all'uguaglianza, che non necessariamente si riconduce al differente colore della pelle, ma una lotta che abbraccia qualunque tipo di discriminazione. È la storia dell'accettazione del diverso, dell'altro, sotto un'unica religione, la libertà. Purtroppo è una storia che non può che cominciare dalla sua fine. Here, at this final hour, in this quiet place, Harlem has come to bid farewell to one of its brightest hopes, extinguished now and gone from us forever. È il 27 febbraio del 1965. Siamo ad Harlem, dove 1500 persone sono accorse per dare l'ultimo saluto a Malcolm X. Malcolm X. Chi parla è l'amico Ossie Davis e nelle sue parole c'è tutto lo sconforto per questa fine. Il clima del terrore creato soprattutto negli ultimi mesi intorno alla sua battaglia per un mondo di uguaglianza sfocia nel suo assassinio il 21 febbraio del 65. Durante un suo discorso in pubblico a Manhattan, per mano di tre fratelli neri. Did you ever talk to Brother Malcolm? Chi conosceva veramente Malcolm? Chi aveva avuto il piacere di parlare con lui, di stringergli la mano, di sorridergli, di stargli accanto? E come conclude l'amico Ossie, rendergli onore è rendere onore alla parte migliore di noi stessi. E per fare questo dobbiamo per forza di cose fare alcuni passi indietro per ricostruire l'incontro che ha cambiato Malcolm e che alla fine gli sarà fatale. What is your real name? Malcolm. Malcolm X. Is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Quello che avete appena sentito è un giovane Malcolm che risponde per le rime a un giornalista durante uno show televisivo. Perché dovrebbe chiedere allo Stato se è legale chiamarsi X? Non si deve chiedere allo Stato se è legale chiamarsi Smith o Jones. Questa X va a sostituire il suo cognome da schiavo, poiché ogni nero ha sempre avuto come segno di riconoscimento il nome del padrone, un'estensione anagrafica della proprietà. My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather, and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master. Malcolm non può accettare di chiamarsi come suo padre, come il padre di suo padre, ovvero come lo schiavista bianco che li ha portati in America. Quella X ha semplicemente la funzione di un azzeramento. Cancella ciò che è stato, ma punta il dito su ciò che sarà, un'incognita per ripartire e ricostruirci sopra dei valori. La sua storia personale parla fin da bambino dell'uomo che diventerà. Malcolm nasce nel 1925 a Omaha, in Nebraska. Il suo cognome prima della X è Little. Nascere nero negli anni 20 in America significa due cose. O adeguarsi a quel little, che elimina l'identità dell'essere umano, oppure significa combattere per la libertà e l'uguaglianza, rischiando anche la vita. Nella famiglia di Malcolm si sceglie la seconda strada. Il padre, Earl, è un predicatore battista, seguace della dottrina di Garvey, la UNIA, Universal Negro Improvement Association, che insegue il sogno africano di un ritorno per i neri nella loro terra d'origine. Anche la madre, Luisa, è un'attivista. Vari episodi di violenza si susseguono da parte del Ku Klux Klan ai loro danni. Prima viene data alle fiamme la loro casa. Infine, nel 1931, avviene l'uccisione del padre, evento che segna profondamente il piccolo Malcolm. 1929. The financial house of cards collapses and the overinflated stock market plunges into a great depression. A financial panic grips the world. In seguito alla Grande Depressione non è facile trovare lavoro per la madre che si trova vedova a dover mantenere da sola sette figli. Malcolm e i suoi fratelli vengono separati e dati in affidamento. E la madre, a causa della sofferenza per la perdita dei suoi figli, comincia a soffrire di attacchi maniaco-depressivi e viene dichiarata pazza. Questa separazione dagli affetti familiari è un'ulteriore ferita anche per Malcolm, che cerca nello studio il suo riscatto. Da grande vuole fare l'avvocato, ma quando lo dichiara a uno dei suoi professori è inevitabile che questi si metta a ridere, dicendogli che per un nero è molto più onorevole fare l'artigiano. Le frustrazioni si susseguono e accendono in Malcolm il suo lato ribelle. Lascia la scuola e si trasferisce per un po' a Boston dalla sorella maggiore, prima di approdare ad Harlem, New York. Il suo primo lavoro è fare illustrascarpe in un nightclub. Sono gli anni 40 e la società americana è in piena trasformazione. I neri che combattono nella Seconda Guerra Mondiale sono 3 milioni. La loro musica riempie i locali quasi come un movimento intellettuale. Duke Ellington, al quale Malcolm aveva lustrato le scarpe, come a tanti altri musicisti famosi, nel 1943 presenta la sua opera Black, Brown and Beige come un inno all'integrazione. Malcolm, per mantenersi, fa diversi lavoretti, tra questi il cameriere su un treno. La sera che Joe Louis, The Brown Bomber, riconferma per la quinta volta il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, Malcolm è in servizio. La sua gioia è così grande che decide di unirsi alla gioia collettiva per il primo afroamericano che raggiunge lo status di eroe nazionale e molla tutto. Louis is struggling. So far the power hasn't really told here. Lovely left hook there from Conn. Malcolm è un giovane nero e, come tutti i giovani neri del periodo, veste con colori sgargianti, indossa giacche molto abbondanti, porta cappelli buffi. Insomma, cerca di imporre il suo essere afroamericano urlandolo, stilisticamente parlando, al mondo. Una delle operazioni che lo impegnano di più è quella che fa con i suoi capelli ricci e crespi, segno inconfondibile della sua razza. Una volta al mese si cosparge il capo con un miscuglio acido in grado di lisciarglieli. Un controsenso nella vita di un nero come lui, cercare di confondersi morfologicamente con i bianchi. Ma la sua coscienza di sé non è ancora al massimo. Frequenta donne bianche quasi come per sfregio. Si dà al gioco d'azzardo, alla droga, alla vita che sembra sia l'unica possibile per un nero in quel periodo. E come è giusto che sia, per chiudere il suo curriculum, nel 1946 arriva alla prigione, dove comincia a prendere confidenza con un'idea, una dottrina, una filosofia che gli cambierà la vita. E solo all'uscita del carcere arriverà l'incontro con il predicatore di tale filosofia, Elijah Muhammad. Elijah Muhammad, nato Elijah Poole, come racconta lo stesso Malcolm. Nel 1931, credo, a Detroit, mentre stava insegnando la vera storia della nostra gente, si rese conto in quel momento che aveva un nome inglese e, non essendo un inglese, gli sembrò fuori luogo e il suo maestro gli diede il nome che porta oggi, Muhammad, Elijah Muhammad. Questo è il nome dell'uomo che segna la vita di Malcolm, un nome che abbandona le sue radici di schiavo per abbracciare quelle musulmane nel lontano 1931. Quando a Malcolm parlano di lui, la sua dottrina, la Nation of Islam, un'organizzazione afroamericana fondata su un'originale interpretazione delle leggi dell'Islam, è da poco diventata una realtà. Tutto infatti comincia quando Elijah incontra a Detroit Fellas Fard Muhammad, il maestro di cui parla Malcolm, un ambulante che aveva già fondato il suo tempio islamico a Detroit. Elijah si affeziona così tanto all'idea che la religione islamica sia l'unica via di salvezza per fondare una nazione incentrata sulla supremazia nera che decide di cambiare nome e fare proseliti. Nel 1942 Elijah viene messo in prigione con l'accusa di aver indotto i suoi seguaci a disertare la guerra e vi resterà fino al 1946, l'anno in cui in prigione ci finisce Malcolm per motivazioni, come abbiamo già visto, meno nobili. È proprio la prigione, il luogo dove Elijah riesce a riflettere sulla Nation of Islam e a istituzionalizzare il movimento che fino ad allora era stato solo clandestino. La prigione, che straripa di neri accusati dei reati più disparati, è anche il luogo ideale dove cominciare a reclutare. Queste le sue parole. I cosiddetti negri americani devono essere rieducati. Devono essere ricreati completamente. E la condizione non è lasciarli fare, ma affidarli all'Islam per la loro riqualificazione. Una delle espressioni più care ai seguaci di Elijah è proprio so-called American Negroes, i cosiddetti negri americani, che devono affrancarsi da loro stessi, dalle infinite sciocchezze che l'uomo bianco li ha indotti a pensare sulla loro natura. Solo attraverso la rieducazione, la piena coscienza di sé, si può arrivare ad avere il rispetto. E la Nation of Islam si propone proprio questo. Malcolm, quando nella sua prigione gli parlano di questa filosofia, è un po' come se trovasse una risposta metafisica a una condotta che avrebbe tanto voluto avere da sempre. Le frustrazioni scolastiche, i brutti ricordi della sua famiglia, gli errori fatti una volta arrivato a New York, lo fanno essere terreno fertile per la Nation of Islam. E comincia così il suo viaggio di conversione, attraverso lo studio. Dal carcere intrattiene un fitto rapporto epistolario con Elijah, che nel frattempo sta preparando i cosiddetti negri ad accogliere un discepolo così entusiasta. It is Islam that you must have today. Without Islam, you cannot see the hereafter. The Holy Quran plainly teaches us that if we come upon the resurrection day with a religion other than Islam, Allah will not accept. He accepts only Islam. Islam is the true religion of Almighty God. La nazione dell'Islam predica la completa separazione dalla società bianca e insegna che le persone di colore devono sviluppare una propria indipendenza economica, religiosa e nazionale. Gli insegnamenti della nazione condannano il bere, il gioco d'azzardo, l'abuso fisico di donne di colore e l'incapacità di difendere la propria famiglia dagli attacchi dei violenti americani bianchi. Elijah Muhammad utilizza anche la recente indipendenza di molte nazioni africane come esempio per i suoi seguaci americani. A differenza degli altri leader afroamericani della metà del XX secolo, lui crede che abbia più senso cercare aiuto dalle nazioni africane indipendenti che andare in Africa. Punta molto sull'educazione e sulla dignità, che parte dall'istruzione, come cita Malcolm. L'onorevole Elijah Muhammad non vuole scoraggiare i neri ad andare nelle scuole dei bianchi. Crede solo che sia meglio andare nelle nostre scuole fino a quando non conosceremo meglio noi stessi. Quando la dignità della razza sarà dentro di noi, potremo andare in qualunque scuola e saremo capaci di cancellare questo complesso di inferiorità che molti cosiddetti negri hanno. Solo allora saremo pronti per un'integrazione dell'educazione. La preparazione al grande incontro della sua vita avviene in galera, attraverso letture ed esercizi, come la trascrizione di un intero dizionario. Elijah gli consiglia di passare attraverso le parole e il loro significato, ridando così ordine ai pensieri. Alla voce nero, la definizione è privo di luce, oscuro. È da lì che vuole partire la Nation of Islam ed è da lì che partirà anche Malcolm. Il 1952 è arrivato. Malcolm esce di prigione nel luglio di quell'anno. Un anno indimenticabile comunque, come canta Nat King Cole, non tutti i club di New York, ma solo in quelli in cui non vengono applicate le norme di segregazione razziale. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Malcolm è un giovane di neanche 30 anni, entusiasta di questa nuova visione del mondo e del suo essere nero, mentre Elijah Muhammad è un anziano signore di mezza età. Facile vedere in lui il suo successore. I primi anni sono gli anni dell'adesione completa alla dottrina della Nation of Islam. Sembra incredibile, ma c'è un momento preciso nella storia di Malcolm a cui far risalire la sua conversione. Quell'attimo in cui il suo passato, il suo presente e il suo futuro si fondono insieme, come scriverà nella sua autobiografia. Improvvisamente mi apparve un uomo seduto accanto, sulla mia stessa sedia. Aveva un vestito nero, non era di colore, non era bianco, aveva una pelle leggermente scura, probabilmente era un asiatico. Non seppi collocarlo in nessuna razza. Non avevo idea di chi fosse, ma non avevo paura. Sapevo che non stavo sognando. Ma cosa sta succedendo in America in quegli anni? sono gli anni in cui Rosa Parks si rifiuta di cedere il posto a un bianco in autobus. Sono gli anni più accesi della segregazione razziale. E accanto a un animoso Malcolm che predica la separazione tra bianchi e neri, rifiutando il suo cognome da schiavo, l'America accoglie in Alabama un non violento Martin Luther King. Crediamo di essere nel giusto. Chiediamo soltanto il rispetto dei nostri diritti costituzionali. Continueremo ad usare la non violenza, resisteremo passivamente, imponendo le armi dell'amore. Malcolm guarda con distacco questo movimento e la distanza di posizioni tra i due leader neri sembra essere pari a quella geografica. Lui parla ai ragazzi di strada, i neri del ghetto, a come li chiama lui i cats in the streets, parla la loro lingua. Cosa significa per chi conosce solo emarginazione e povertà la non violenza? L'azione, quella che è nelle corde del suo carattere da sempre, è l'unica via di salvezza. Hey, everybody in Harlem is a Muslim. La risposta è sempre la stessa. Tutti i neri dei ghetti che si affollano per ascoltarlo sono musulmani. E quello che insegna il venerabile Elijah Muhammad è rispondere con l'azione. Anche se per i bianchi azione significa violenza quando si tratta di neri, come cerca di spiegare Malcolm a un intervistatore. L'accusa di violenza nasce dal complesso di colpa nella coscienza e nell'inconscio della maggior parte dei bianchi di questo paese. Sanno di essere stati violenti nella loro brutalità contro i neri e hanno paura che un giorno i neri si sveglieranno e che faranno ai bianchi quello che i bianchi hanno fatto a noi. Eccolo il pregiudizio da cui i neri si devono liberare se vogliono avere una maggiore coscienza di sé e del loro potere. Scoprirà, caro signore, che arriverà il tempo in cui i neri si sveglieranno e diventeranno abbastanza indipendenti intellettualmente da pensare per se stessi, come lo sono gli altri esseri umani. Allora il nero penserà come un nero e proverà empatia per gli altri neri. E questo nuovo sentire e pensare farà sì che i neri si parlino a quel punto. Quando attaccherai un nero, attaccherai tutti i neri. È la fine degli anni 50. Alla presidenza si candida John Fitzgerald Kennedy, che inserisce la campagna dei diritti civili come uno dei punti forti del suo programma. Malcolm rimane delle sue idee, separazione e non integrazione per i neri musulmani. Nel 1958 Malcolm si sposa e ha 6 figlie. Essere marito e padre cambia la sua prospettiva. Gli insegnamenti di Elijah sembrano trovare anche in questo caso la giusta collocazione nel rispetto della donna, cosa che qualche anno più tardi sarà causa di una profonda e fatale frattura. A questa trasformazione personale fa seguito un rinnovamento anche delle sue convinzioni. Guarda infatti all'Africa con occhi nuovi, perché anche lì i tempi stanno cambiando. Il processo di decolonizzazione e l'idea di un'Africa unita è per Malcolm la possibilità di creare una solidarietà tra neri afroamericani e neri africani. Eppure, all'insediamento di uno dei primi governi indipendenti in Africa, quello del Ghana, ex Costa d'Avorio britannica, viene invitato Martin Luther King. Destini incrociati. Destini incrociati in America, al seguito del leader più carismatico del momento, Malcolm X. Dopo la conversione avvenuta mentre era in carcere alla dottrina di Elijah Muhammad e la sua Nation of Islam, il giovane Malcolm comincia a fare proseliti, portando al movimento migliaia di iscritti. A differenza dell'altro leader nero, Martin Luther King, che predica la non violenza, Malcolm è per l'azione e proprio per questo è visto come un pericoloso estremista. La CIA e l'FBI sorvegliano Malcolm ormai da tempo e, come riporta un memorandum proprio dell'FBI di quel periodo, lo si faceva per impedire il sorgere di un messia nero che potesse condurre il popolo afroamericano verso la liberazione. La sua vita è spesso messa in pericolo, così come quella dei suoi cari. Malcolm non crede nella non violenza di King, Lui sente che l'odio può generare solo odio. Non credo in alcun tipo di non violenza. Credo che sia giusto essere in pace con chi è in pace con te. Ma quando hai a che fare con un nemico che usa solo la prepotenza, credo che essere non violenti sia inutile. Elijah continua a vedere in lui il perfetto portavoce della Nation of Islam e le sue apparizioni in pubblico ormai superano di gran lunga quelle del maestro. Anche se tutto quello che dice Malcolm si rifà al venerabile Elijah Muhammad, col tempo Elijah comincia a subire questo aumento di popolarità del suo discepolo. Spesso l'animosità con cui recluta i neri musulmani del nord mette il movimento in una cattiva luce. I suoi discorsi si fanno sempre più politici e meno religiosi. I nostri fratelli africani hanno guadagnato la loro indipendenza molto prima di noi qui in America. Sono riconosciuti e rispettati molto più di noi. Solo 10 anni fa la nostra gente era colonizzata e subiva ogni tipo di discriminazione, oppressione, umiliazione. Ed ora sono molto più rispettati di noi. Alla base c'è la consapevolezza che gli ha insegnato Elijah sulla propria persona. Malcolm non si stanca di dirlo. Il rispetto che i neri chiedono ai bianchi deve partire per prima cosa da una rieducazione della propria coscienza. E il convincimento che ci mette nel predicarlo gli fa avere sempre più il favore del pubblico. Who taught you, please? Chi vi ha insegnato ad odiare la consistenza dei vostri capelli? Chi vi ha insegnato ad odiare il colore della vostra pelle, ad odiare la forma del vostro naso o quella delle vostre labbra? Chi vi ha insegnato ad odiare voi stessi dalla testa ai piedi? Chi vi ha insegnato ad odiare la razza a cui appartenete? Prima di chiedere al venerabile Elijah Muhammad come fare, dovete essere voi ad insegnare a voi stessi e a chiedervi chi vi ha insegnato ad odiarvi. Malcolm ci mette l'anima, perché lui stesso è stato vittima di questo in gioventù. Era sempre lui, infatti, quello che si lisciava i capelli per assomigliare ai bianchi. La religione è solo il pretesto ormai per fare la sua rivoluzione, per insegnare ai neri a pensare nero, per vivere nero con dignità. Da quando Malcolm è sposato e ha delle figlie, il rispetto che è alla base della dottrina di Elijah Muhammad nei confronti della donna diventa uno dei suoi cavalli di battaglia. Ignaro che sarà proprio su questo punto che la loro relazione collasserà definitivamente. Le persone meno rispettate in America sono le donne nere. Le persone meno protette in America sono le donne nere. Le persone più rifiutate in America sono le donne nere. Come ci insegna il venerabile musulmano Elijah Muhammad, dobbiamo rispettare le nostre donne e proteggere le nostre donne. E l'unico momento in cui un musulmano diventa violento è quando qualcuno molesta la sua donna. Sono gli anni 60 ormai. Comincia ad aprirsi nella mente di Malcolm l'idea che ogni tipo di segregazione vada combattuta. Le donne, di qualunque colore abbiano la pelle, sono solo uno dei tanti soggetti da difendere. L'America, con John Fitzgerald Kennedy, ha reso incostituzionale la segregazione razziale. Ha parlato di diritti civili. Eppure la strada da fare è ancora molta. The Quran, as you call it, Koran, teaches us to suffer peacefully. Our religion teaches us to be intelligent, be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone. But if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Inshallah, and his legacy will live on since he's gone, but the message remains that a nation cries out, we still feel pain and mental bondage in this society. What happened to piety? Brothers bragging the ghetto. Let's learn from Malcolm. Learn to let go. Learn to let go. Learn to let go. My enemy is necessary. He's very necessary to fight your adversary. I'm not an adversary. I want the world to take the territory. È il 1963 e la protesta ormai non è più solo quella dei neri, ma di tutti i cittadini democratici d'America. Il 28 agosto 250.000 persone marciano su Washington, neri e bianchi, cattolici e protestanti. È la marcia più imponente che la storia abbia mai conosciuto di fronte alla statua del presidente Lincoln, ucciso dopo aver firmato l'emendamento che eliminava la schiavitù. È lì che King pronuncia il suo discorso più noto. I still have a dream. Eccolo, l'American Dream, al quale si oppone Malcolm, che invece vuole risvegliare l'identità concreta, storica, della diversità. Di una diversità da assumere come punto di partenza. Mentre King parla di sogno americano, lui, a proposito della marcia su Washington, dirà: «È una dimostrazione fatta da bianchi davanti alla statua di un presidente morto da 100 anni e al quale, quando era vivo, noi non piacevamo». Sono delle parole dure su King. I bianchi pagano il reverendo King. Per questo il reverendo King continua a insegnare ai neri di essere indifesi, perché questo è il senso della non violenza, essere indifesi, come ci insegnano i bianchi americani. Il problema è ancora lo stesso, da 100 anni a questa parte. One white man named Lincoln supposedly fought the Civil War to solve the race problem, and the problem is still here. Come dice Malcolm, da Lincoln fino a Kennedy, tutti i tentativi di fare qualcosa contro la segregazione razziale sono falliti, perché il problema è ancora qui. Ai bianchi, compreso il presidente Kennedy, fa comodo portare la questione sul piano dei diritti civili, facendo dimenticare la questione vera, che è quella più universale dei diritti umani. Quando noi esprimiamo il dubbio sulla capacità dell'uomo bianco di risolvere il nostro problema, e anche quando esprimiamo il dubbio sulla sua integrità, sulla sua non sincerità, abbiamo ragione, perché il problema è con noi da tanto tempo e quello che viene detto da 100 anni è sempre lo stesso e non c'è una soluzione oggi, più di quanto non ce ne sia stata una 100 anni fa. Malcolm sta dando sempre più una colorazione politica al programma del Nation of Islam, cosa che a Elijah Muhammad e ad altri suoi seguaci non piace. Eppure il prestigio personale di Malcolm è così forte che è difficile pensare di metterlo a tacere. E lui a meditare di allontanarsi, semmai, dal movimento. Il 1963 è anche l'anno dell'attentato a Birmingham a una chiesa dove perdono vita 2 ragazzi e 4 bambine. L'effetto benefico della marcia su Washington sembra svanire del tutto. Sono profetiche le sue parole sul prezzo da pagare per la libertà. La libertà è qualcosa che devi prenderti da solo. E finché i neri americani non faranno capire ai bianchi che siamo pronti e determinati a pagare il prezzo che è necessario per la libertà, la nostra gente continuerà a camminare qui come cittadini di seconda classe o, come li chiamate voi, schiavi del XX secolo. Di quale prezzo sta parlando? Il prezzo della libertà è la morte. Dietro a un benessere apparentemente senza problemi si nasconde l'odio che sfocia con l'assassinio di Kennedy il 22 novembre di quello stesso anno. Malcolm X commenterà: «Chi la fa l'aspetti». Un commento che servirà da pretesto per la Nation of Islam per metterlo a tacere per alcuni mesi. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Destini incrociati. A Destini Incrociati si parla di diritti umani. Si parla di un uomo che ha avuto il coraggio di far sentire la sua voce, sapendo che il prezzo da pagare per la libertà sarebbe stata la morte. Si parla di Malcolm X. È arrivato ormai alla piena consapevolezza della sua missione, che è sempre più lontana da Elijah Muhammad e dalla sua Nation of Islam. È il 1964. Per Malcolm X la battaglia è ormai politica. La religione ha lasciato il posto alla rivoluzione. Le fratture create all'interno della Nation of Islam sembrano insanabili. Noi vogliamo la libertà, con ogni mezzo necessario. Vogliamo giustizia, con ogni mezzo necessario. Uguaglianza, con ogni mezzo necessario. Noi non crediamo che nel 1964, in un paese che si definisce la guida del mondo libero, i cittadini neri debbano aspettare i favori di qualche politico o presidente texano disposto a fare concessioni in tema di diritti civili. No, la libertà noi la vogliamo ora. Il suo carisma coinvolge i neri del ghetto, ma anche personalità del mondo dello sport come Cassius Clay, che dopo l'incontro con la Nation of Islam si converte alla religione musulmana e cambia il suo nome in Muhammad Ali. Malcolm X, I want to talk with you briefly about your affiliation with Cassius. How long have you known him? Nel febbraio del 1964, il pugile si prepara a combattere contro il campione del mondo Sonny Liston. Malcolm X è il suo consigliere spirituale. La sfida diventa quasi religiosa. In gioco la vera religione dei neri, quella musulmana, contro la religione degli schiavi. Liston, infatti, è cristiano. Sono i mesi in cui Malcolm è stato allontanato dal movimento di Elijah Muhammad e seguire l'amico Muhammad Ali lo aiuta a stare un po' lontano da Harlem, dove comincia a non sentirsi più a casa. L'incontro finisce con il famoso urlo di Ali. Alla domanda di un giornalista se la religione musulmana ha giocato qualche ruolo nella sua vittoria, Ali risponde che l'aiuto di Allah è nella sua condotta di vita ordinata e che è in quella regola che trova posto anche un momento magico come la vittoria. L'8 marzo di quel 1963 Malcolm lascia definitivamente la Nation of Islam. I vecchi compagni cominciano a temerlo seriamente, forse anche perché temono che Malcolm sveli la vera causa di questo strappo. Hanno paura che io sveli le vere ragioni per cui sono uscito dalla Nation of Islam, ragioni che non ho mai detto. Ma le vere ragioni sono che Elijah Muhammad è padre di 8 bambini, avuti da 6 donne giovanissime che sono state tutte sue segretarie personali. Dov'è il rispetto tanto predicato per le donne? Come può essere un maestro nel quale riconoscersi dopo questo episodio? Le ragioni in fondo sono anche di altra natura. Questo comportamento così distante dal credo di Malcolm non è che la goccia. Elijah Muhammad non è sano. È assolutamente fuori di testa. Come puoi pretendere di rimanere sano con giovani donne di 16, 17, 18 anni intorno a te? La tua mente non può reggere. L'uscita dalla Nation of Islam trasforma Malcolm in un personaggio interessante a livello internazionale. Matura per lui una vera e propria politica estera e nell'aprile del 64 organizza un viaggio in Arabia Saudita dove viene ricevuto come un politico ufficiale. Arriva alla Mecca da musulmano nero con dei dubbi e vede che i musulmani presenti non sono solo neri, ma di ogni colore e capisce quindi i limiti delle storie raccontate da Elijah Muhammad dalle quali ormai ha preso le distanze. Al suo ritorno in America, alla domanda se dopo il viaggio alla Mecca è per l'integrazione, lui risponderà. Non credo che il problema sia essere per l'integrazione o no. Questa non è la questione. La questione riguarda gli esseri umani. Siamo o non siamo esseri umani? Non ha niente a che vedere con integrazione o separazione. La vera questione è stare vicini. That is why all the girls follow you. Just like me, they long to be close to you. Per Malcolm, la Nation of Islam ormai è lontana. Anche se lo strascico delle sue dichiarazioni circa il comportamento di Elijah Muhammad sta dando vita a una frangia estremista che gli sarà fatale. Il movimento è solo il ricordo di uno strumento di lotta e di crescita politica per Malcolm, che ora ha la forza e la dignità per proseguire con le proprie gambe. Crea l'Organizzazione per l'Unità Afroamericana, che decide di adottare un atteggiamento non religioso, non settario, nella difesa dei diritti umani. Oggi sto parlando per me stesso. Prima parlavo per Elijah Muhammad e quello che dicevo era Elijah Muhammad ci ha insegnato questo o quello. Adesso parlo sulla base di quello che ho visto, quello che ho sentito, analizzato e sulle conclusioni che ho raggiunto. It's not a case of being good and bad, good or bad, blacks and whites. It's a case of being good or bad human beings. La questione sono gli esseri umani ormai. Il 2 luglio del 64 Johnson firmerà il Civil Rights Act. Accanto a lui Martin Luther King. In quel periodo i due leader neri si incontrano per la prima e unica volta. Per Malcolm non è un periodo facile. Le minacce da parte della Nation of Islam sono già arrivate. Are you not perhaps afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh yeah, I probably am a dead man already. Alla fine del 64 la rivista Life pubblica una foto di Malcolm X con una carabina in mano mentre guarda dietro le tende di una finestra e titola "Con ogni mezzo necessario". Ancora una volta la sua figura è associata alla violenza. in realtà le minacce di morte arrivano realmente. Il 14 febbraio del 1965, la Nation of Islam, come denuncerà lo stesso Malcolm, è stata responsabile di un attacco dinamitardo ai danni della sua casa. Voglio farvi sapere che la mia casa è stata attaccata dal movimento dei neri musulmani al seguito di Elijah Muhammad. Il 21 febbraio del 65, Malcolm X deve tenere una conferenza a New York. Il clima intorno a lui è pesante. Chiede alla moglie di rimanere a casa con le bambine, ma lei non lo ascolta. Nella sala di Harlem la sua voce risuona potente. Un attimo di confusione e... sotto gli sguardi impotenti della sua famiglia, Malcolm X viene ucciso. Un omicidio annunciato. La persona che conosci come Malcolm X non è più. Vengono condannati tre membri della Nation of Islam. Anche King condanna l'accaduto. The assassination of Malcolm X was an unfortunate tragedy. L'uccisione di Malcolm X è un tragico evento che ci fa riflettere sul fatto che in questo paese ci siano molte persone che sono degenerate al punto tale che esprimono il loro dissenso attraverso l'omicidio. Dobbiamo imparare a prendere le distanze da questo modo violento di dimostrare dissenso. Non possono non risuonare nella mente le parole di Malcolm. The price of freedom is death. E non può non venire in mente il nome di Elijah Muhammad, la stessa persona che l'ha trasformato in Malcolm X e che è stata anche la stessa persona che l'ha portato verso la sua morte. Un incontro di destini che incontra la storia di una nazione e la storia di tutti gli esseri umani. It is not in the memory of man that this beleaguered, unfortunate, but nonetheless proud community has found a braver, more gallant young champion than this Afro-American who lies before us, unconquered still. Recentemente la moglie lo ha ricordato così. I'm pleased when I see someone with a picture of my husband. Mi fa molto piacere quando vedo qualcuno che porta una sua foto. Quando vedo una maglietta con la sua faccia, un cappellino, un poster, sono felice. Quello che mi dicono a me, che sono la vedova, è: lui è vivo. E a volte è così reale che mentre torno a casa ho la sensazione che lui sia lì. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.